Ci riesco? Sì, forse sono riuscito a passare in audio. Purtroppo ho potuto seguire a spizzichi e bocconi tutta la serata perché mio figlio inaspettatamente si è svegliato, 14 mesi, e mi ha fatto impazzire. Ma tant'è, questo è uno dei problemi di noi esseri in carne ed ossa. Due cose volevo dire. Una, come si è sviluppata questa serie di incontri sulla singolarità. Io parto dal presupposto che non ho una visione scientifica di questa problematica. Quello che forse a me interessa di più sono gli aspetti, come dire, i riflessi che hanno su di noi oggi, qui, adesso, queste considerazioni sulla tecnologia. Per quanto io abbia abbracciato immediatamente, in qualche maniera, e abbia intuito la forza e la potenza che ha l'idea della singolarità, devo dire che mi attrae ma non mi emoziona. E devo ancora capire forse molte cose e devo ancora forse cercare di togliermi di mente in qualche maniera l'approccio un po' tecnichese. Non sono un tecnofobo. Però non spesso parlare di tecnologia mi, come dire, o soltanto in termini di tecnologia, non mi convince fino in fondo. Però eccomi qua, sono molto interessato, anzi io ho partecipato fin dall'inizio e ho partecipato anche alla costruzione del sito. Quello che io mi auguro da questi incontri è di continuare ad approfondire sempre di più quelle che sono le tematiche che ad esempio ha affrontato David, e che però tutto sommato sono tematiche che in qualche maniera prescindono dall'idea di singolarità, ma che sono, come dire, un'idea di sviluppare una innovazione, un pensiero di innovazione che ha bisogno, che c'è bisogno in questo paese. Poi, altro aspetto. Per quanto riguarda il discorso del sito, sì, forse ci vorrebbe contributi, più contributi, più contributi, più incontri fra persone. Forse è un po' fermo, bisognerebbe riuscire a dargli più materiali e poi dargli una forma. Per adesso io credo che sia ancora un momento in cui bisogna, come dire, riempirlo, e poi in un secondo momento formalizzarlo. Ecco, questo è quello che penso. Mi stacco.